Mix 24 di Giovanni Minoli. Poco più di 11 anni fa, il 2 aprile del 2005, moriva Karol Wojtyla. Per giorni una folla di fedeli provenienti da ogni parte del mondo segue ferma in piazza San Pietro le ultime ore di vita del Papa. Del Papa malato che con dignità si avvicina dopo una lunga e sfinente malattia alla morte. Santo subito è il grido dei fedeli in piazza San Pietro durante il funerale. E a soli 9 anni dalla morte, il 27 aprile del 2014, quel desiderio è stato esaudito. La canonizzazione di Giovanni Paolo II, infatti, è stata una delle più veloci della storia. Durante le ultime ore di Wojtyla, lo ricordiamo, il mondo si è fermato in una silenziosa attesa. E noi, oggi, a Mix 24, vogliamo ritornare su quegli ultimi giorni del Papa attraverso le emozioni di un testimone speciale. E Navarro Valls, il direttore della sala stampa della Santa Sede, durante tutto il pontificato di Giovanni Paolo II. In quel momento il mondo, di fronte alla sua commozione, ha capito. In tutti quei giorni dovevo naturalmente andare incontro all'interesse che era universale. Avevamo accreditato quei giorni in Vaticano una cifra che oltrepassava il numero dei 6.000 giornalisti, mi dicevano al di sopra di Olimpiadi, cose del genere. Il lavoro che toccava fare a me era distribuire il mio tempo tra la stanza dove stava il Santo Padre e la sala stampa per comunicare ai giornalisti. Mentre davo i dati obiettivi, pressione arteriosa, temperatura, eccetera, direi quasi che era più facile. Certo. Ma in quel momento un giornalista, lo ricordo ancora, un giornalista tedesco mi chiede: e lei personalmente come vive questi momenti? Si è rotta l'emozione. È stato in quel momento che ho visto tutta la mia vulnerabilità quando ha voluto entrare nel mio mondo personale. Probabilmente quello giustificava. È stata l'emozione di quel momento, ma era impossibile non averla. Probabilmente era così. E di quel momento lì lei cosa ricorda? Questo mi pare, anzi sono sicuro, era venerdì, era praticamente 24 ore prima della morte del Santo Padre. Pochi momenti dopo questo incontro con la stampa ritornavo alla stanza del Santo Padre. E lì è capitato quella cosa che ricordo, e spero ricorderò tutta la mia vita, che era un venerdì. Il Papa aveva da molti anni, probabilmente da quando da giovane era stato ordinato sacerdote, aveva una devozione particolare di fare tutti i venerdì la Via Crucis personalmente. Quel mattino lui voleva esprimere qualche cosa che le persone accanto a lui non capivamo. Alla fine si è capito che voleva che qualcuno le leggesse le 14 stazioni della Via Crucis. E hanno cominciato a leggere le stazioni e lui a seguire quella sua devozione personale. Quindi si è ricordato che era un venerdì. Era lucido fino all'ultimo. Era lucido, certamente. Il mondo, in fondo, si interroga ancora sul vero motivo per cui Giovanni Paolo II a un certo punto ha deciso di esibire in modo così fragoroso questa sofferenza e questo dolore di fronte a tutti, nudo di fronte alle telecamere praticamente. Come mai? È una decisione sua? Dunque bisogna chiarire questo. Qualche volta ho sentito anche questo Papa che si viva la sua malattia, i suoi limiti. Non era così. Quello che lui voleva, e da anni, da parecchi anni prima, era che quei limiti fisici non fossero un ostacolo a quello che era la sua missione, quello che lui voleva fare perché doveva farlo. Quindi ha scelto la via di ignorare quello, anche se naturalmente la gente quello che vedeva era questa lotta per superare i suoi limiti fisici. In realtà lui andava per la sua strada? Lui andava per la sua strada. Non era disponibile che quello fosse un ostacolo a fare il Papa. E così, così l'abbiamo visto, quell'atto di sincerità con se stesso. Ma è stata una c'è stata discussione su questa linea? No. Ma lui è andato lui della sua strada? Non era tema di discussione. Non era tema di discussione. Ecco, arriviamo al venerdì 25 marzo. Secondo i medici, così ci è stato detto, il Papa non avrebbe dovuto seguire la Via Crucis, neanche per intero, neanche nella sua cappella. E invece lo ha fatto. Anche lì è stata una decisione sua? Anche lui aveva deciso che il Venerdì Santo voleva seguire e in qualche modo essere presenti alla Via Crucis. Sapeva che persone di tutto il mondo seguivano la Via Crucis, lui in qualche modo non poteva essere assente. Siccome era nel suo appartamento, ha deciso di seguire da lì, proprio dalla cappella, dalla sua cappella, la Via Crucis. E c'era sotto l'altare un monitor di televisione dove lui poteva seguire la Via Crucis. Ecco, ma quella è un'inquadratura che resta nella storia dell'umanità, l'inquadratura del Papa appeso alla croce che segue sul monitor. Era un'inquadratura. Chi è che l'ha decisa quell'inquadratura? No, parlo era un'inquadratura straordinaria che in qualche modo era obbligata. Era obbligata in qualche modo perché era l'unica inquadratura dove si vedeva che il protagonista quella sera non era nemmeno il Papa, era la Via Crucis, certo. Per questo si doveva vedere il monitor che era sotto l'altare. E il Papa che partecipava, quindi l'unica inquadratura possibile era quella. Certo, è fantastica, semplice e fantastica, che univa la passione di Cristo con la morte del Papa. Era molto eloquente, mi pare. Senta, ma si è sentito tradito il Papa dal suo figlio? Qualche volta l'abbiamo visto fare dei gesti di chi soffre perché non può camminare, non può parlare, uno che ha avuto quella fisicità così potente come lui. No, perché, se si può parlare così, il moto della sua anima era la sua missione. Tutto quello che fosse un ostacolo bisognava lasciarlo. Quindi era questa decisione esistenziale, radicale, quello che spiega tantissime cose. Senta, ma dopo tanti anni, forse ce lo può dire, qual è il ricordo più caro che lei ha di Giovanni Paolo II? Guardi, più di 20 anni vicino a lui, puoi immaginare quanto è difficile sceglierne uno. Cioè. A livello molto molto personale, me lo permetta, mi ricordo che quando mio padre stava molto male, infatti è morto, sono dovuto andare nel mio paese, sono stato lì gli ultimi giorni, e il giorno che già è morto accompagnavo la mia mamma dalla clinica a casa di mia madre. Arrivando lì squilla il telefono, prendo il telefono, era il Papa. La sua prima domanda, come sta la mamma, a cui lui non conosceva. Fantastico. Certo. È fantastico, sì, no? È fantastico, certo. Nella sua semplicità, sì. Nella sua autenticità. Questi naturalmente a livello molto personale dei ricordi che servono. Senta, lei è stato appunto più di 20 anni il portavoce di Wojtyla, lo ha visto da vicino, l'ha seguito qualunque vicenda, molte, insomma quasi tutte le vicende del pontificato. Ecco, ma chi era Giovanni Paolo II? Cioè, che cosa resterà di questo Papa che ha regnato così tanto? Mi sembra che si potrebbero vedere due domande nella sua domanda. Chi era? Era un essere umano, era un uomo, innamorato dall'inizio alla fine, innamorato di una persona, di Gesù Cristo. Lì è il punto dal quale io penso che si potrebbe fare la ermeneutica di quella persona. Quindi non era un freddo, non era un duro, non era un sentimentale, era un uomo pieno di amore e quindi di dedizione alla persona di cui lui era, certo, era innamorato. Poi tutto questo ha dato luogo a un enorme insieme di valori, insieme umani e cristiani che stanno lì, nelle sue opere, nei suoi discorsi. La ricchezza che c'è lì potrà durare, è possibile, secoli. Quindi è un giacimento che darà frutti nel tempo. Da dove tirare, da dove cambiare, quando si discutono, se vogliono discutere in profondità temi come la dignità umana, la dignità della donna, il senso del dolore umano, il senso della gioia umana, tutto questo nelle sue opere è un presente. Cantiere straordinario. Senta, il giorno dei funerali, la folla immediatamente, istintivamente, non so bene, rivolta a Giovanni Paolo II, ha gridato santo subito. Ecco, santo subito, lei se l'aspettava? Non mi aspettavo quella esternazione pubblica, ero convinto che era santo. C'è un dettaglio, un piccolo dettaglio conosciuto, però nel momento che lui è morto, nella sua stanza, tra le persone che c'erano lì, non si è fatta nessuna preghiera di quelle tradizionali della Chiesa per i morti, ma si è pregato quasi spontaneamente un inno di ringraziamento, un Te Deum. Era una cosa non preparata, puramente spontanea, ringraziando Dio per la ricchezza di quella vita che era finita in quel momento. Padre Giulio Albanese, missionario comboniano, direttore della rivista Popoli e Missione, fondatore della MISNA. Ecco, padre Albanese, lei ha accompagnato Papa Francesco nel suo ultimo viaggio in Africa. Ma è sbagliato dire che tra Papa Francesco e Giovanni Paolo II il rapporto non era proprio idilliaco? Non credo sia corretto. Certamente spiritualità diverse. Posso dire questo, che uno è nato in un contesto, quello latinoamericano, segnato dall'esclusione sociale, ingiustizie e quant'altro. Giovanni Paolo II, non dimentichiamolo, è un vescovo della guerra fredda, è un vescovo che ha patito innanzitutto e soprattutto gli effetti drammatici della cortina. C'è la convinzione da parte di Papa Francesco che Papa Wojtyła sia stato un po' troppo duro con la teologia della liberazione? C'è da considerare che è stato canonizzato, che è stato fatto santo Giovanni Paolo II proprio da Papa Francesco, questo la dice lunga. Comunque, il suo ultimo libro, Vittime e Carnefice in nome di Dio, appena uscito per Einaudi Stile Libero, affronta i più attuali e drammatici scenari contemporanei, che vanno dall'immigrazione al terrorismo, raccontando come e quanto la religione venga usata come strumento di odio e di divisione nelle periferie del mondo. Ecco, ma chi la strumentalizza di più in questo senso? Nella fattispecie, guardando quello che succede sul versante medio orientale o nell'Africa subsahariana, certamente queste organizzazioni criminali, questi movimenti jihadisti che seminano morte e distruzione e che, non dimentichiamolo, strumentalizzano proprio la religione per fini eversivi, guardando innanzitutto e soprattutto al diktat dell'interesse. E da questo punto di vista è importante stigmatizzare che non si tratta di fenomeni che hanno una valenza religiosa, anche perché dire questo significa in una maniera o nell'altra pensare e credere che uomini di religione possano in una maniera o nell'altra uccidere nel nome di Dio. Papa Francesco, ma i leader delle grandi religioni in questi ultimi anni, nel corso degli incontri che si sono svolti periodicamente ad Assisi, hanno sempre ribadito il fatto che essere uomini di Dio significa essere uomini di pace. Comunque, un capitolo del suo libro è dedicato allo scontro delle civiltà, il che ci riporta alla tesi di Samuel Huntington del 1996. Ecco, in che modo è ancora attuale questa tesi? Credo che questa sia una minaccia ancora oggi, soprattutto guardando al fenomeno del jihadismo. Però attenzione, in fondo ci sono anche responsabilità grandi da parte dell'Occidente, non fosse altro perché a partire già dalla guerra fredda vi sono testimonianze, documenti che spiegano come effettivamente l'Occidente in una maniera o nell'altra abbia anche sovvenzionato in passato queste formazioni, e anche il modo in cui è stata gestita la crisi irachena la dice lunga. Detto questo, la sfida dal mio punto di vista innanzitutto e soprattutto è culturale. Qui si tratta di capire e comprendere che questa umanità dolente di cui siamo tutti parte integrante ha un destino comune e che in fondo accettare la sfida dello scontro significa in una maniera o nell'altra cadere in quella trappola tesa proprio da questi movimenti jihadisti, anche perché, inutile nasconderselo, l'identità cristiana, tra virgolette, è una identità non violenta. E poi ancora, è curioso che l'Europa oggi, dal punto di vista identitario, si riscopra cristiana, proprio perché c'è l'ISIS a rammentarlo, quando poi in fondo, pochi anni fa, quando si trattò di affrontare il tema delle radici cristiane dell'Europa, sappiamo quanto laicismo, quanto la proposta di Giovanni Paolo II fu osteggiata. Questo è sintomatico, anche se vuole, di una certa incongruenza, è sintomatico della contraddizione del nostro pensiero oggi, che è il pensiero debole. A proposito di pensiero debole, che cos'è la globalizzazione dell'indifferenza? Papa Francesco è molto chiaro, ne ha parlato nel corso della sua storica visita a Lampedusa ed è un concetto che ha ripetuto continuamente. Papa Francesco non è assolutamente contro il libero mercato. Se uno legge attentamente il suo magistero, come anche quello dei suoi predecessori per quanto concerne la dottrina sociale, è contro semmai il liberismo, cioè il fatto che comunque oggi si sia affermata un'ideologia per cui c'è tanta umanità dolente che viene, come dire, immolata sull'altare del mercato, di un liberismo sfrenato, per cui ciò che conta innanzitutto e soprattutto è il business, è il cosiddetto diktat dell'interesse. Da questo punto di vista è il caso di dirlo, l'economia uccide ed anche questo è un fenomeno persecutorio. Grazie padre Giulio Albanese, vittime e carnefici nel nome di Dio. Einaudi Stile Libero. E adesso la Sora Cesira affronta l'attualità politica come sempre a modo suo. Per un fisco che non mi trova più, ho il mio conto libero laggiù. Cayman, Panama, son vicine poi, e c'è anche un mare limpido che non sai. Il mio gruzzoletto, tutto ce lo metto, mio bel paese fottiti, bye bye. Io faccio questa cosa ben cosciente, che tu paghi le mie tasse deficiente, svenuto sulle buste di Equitalia, di Equitalia. Questo fisco qui è becca solo chi già guadagna il minimo, eh sì, e quelli come me no, non li acchiappa mai. Siamo tipi rispettabili, che vuoi? Confesso che i problemi della gente mi lasciano di brutto indifferente, mi spalmo contentissimo al sole. E ciò che in una vita hai di guadagno, io in un pomeriggio me lo magno e non pavento minima intenzione di dichiarazione dei redditi. Buongiorno Alessandra Cravetto, di cosa ci parli oggi? Buongiorno, allora oggi vorrei fare un discorso serio perché SMAM, che siete all'ascolto, è fondamentale che i vostri bambini parlino le lingue straniere, almeno una, almeno l'inglese lo devono parlare bene, perché sennò possono succedere situazioni di questo tipo. My mother who cry in, cry, in the TV when shish smoke no shish kebab, kebab. She body. Feeling she, with the, she felt the che parola was, destroyed by the people. Ha distrutto the people. Because the idea without marketing and commercial structure, the results are not good. Non but è buono. Non va bene. No. The representation of possibility. Possibility. He was a worker. So in Johnny Walker. Skywalker. Telephone to speaking about in the theater. In the theater. A genius. È un genio. Pure lui. To use the copyright. C'ha il copyright per tutto ciò? License. License in driving license. Adesso, license. Come spesso accade in questi momenti, tocca non accade spesso per fortuna, però. To the lunch and for Italian politician is absolutely crucial to say. No, è crucial, vanno a mangiare. Time of lunch. Finisce tutta a pizza e fighi, insomma. Vabbè. Però ti posso dire una cosa? Che coraggio. Ah sì. No, ce ne vuole, voglio dire, no, non è da poco. Il coraggio non gli manca, però insomma, diciamo che potrebbe migliorare. Allora, per migliorare, perché c'è sempre un margine di miglioramento, c'è una app che io proprio suggerisco a Matthew e a tutti i ragazzi che stentano un po' con l'inglese. Si chiama Duolingo, che ti insegna l'inglese con una specie di personal trainer. Wow. Che ti traduce le frasi facendoti imparare i vocaboli nuovi, facendoti esercitare sulla giusta pronuncia. Posso dire una cosa? Posso dirla? Io però ho sentito che sul francese, il francese di Renzi, va molto meglio. Molto meglio, sì. Molto meglio. Sì, sì. Premier défi che nous devons avoir dalle prochaine mois, dalle prochaine années. Passo all'italiano per si può scrivere in francese, c'est pas bon. L'ha detto lui, eh? C'est pas bon. C'est bon bon. C'est pas bon. Comunque, Mathieu, a questo punto, la app Duolingo ti insegna anche il francese, per cui già che ci sei, che stai facendo esercizi sull'inglese, dai un'occhiata pure al francese. Forse. No, no, no. Bisogna, dici che ce n'è bisogno. Bisogna applicarsi, per cui o ci si applica, oppure un'altra possibilità c'è, ed è quella di ricorrere al dialetto. Ma un è mia mio, ed una mio, ed una mia mia, ciccio, ma un è mia mio, ed una mio, ed una mia mia. O cosa cadici? No, no, un è cinese, vesto via, RBLB, in dialetto livornese, ma un è non mia è cinese, mio, però è bravo, il livornese lo parla benissimo, ma vale per la tua app? Ma probabilmente sì, app Duolingo serve per tutte le lingue e da come lo parla anche per il dialetto livornese. Oh Matteo, ma il dialetto livornese lo parli? Shish che lo parla. Ma un è mia mio, ed una mio, ed una mia mia, ciccio, ma un è mia mio, ed una mio, ed una mia mia. I David di Donatella. Che poi sono io. Donatella, buongiorno. Tu hai deciso che ti sto antipatica, vero? Eh? Dillo, dai, mica mi offendo, sai? Tanto pure tu che ti pensi che su di simpatia. Beh, grazie Donatella, ma perché? Perché mi hai mandato a vedere una schifezza e per fortuna trasmettevano pure altri film, quindi sono entrata a vederne uno che ho deciso io. Eh no, Donatella, però lei non è che può fare proprio come le pare. Ah no? Eh no. Senti, cosa? Perché allora non lo vai a vedere tu quel film? E poi io in primavera sono nervosa e ho pure l'ansia, tantissima ansia. E sono un sacco d'accordo con la canzone che dice della maledetta primavera. Vabbè, ho capito Donatella, ma siamo tutti un po' strani, un po' ansiosi in primavera, un po' succede? Secondo te, se uno vede 5 minuti di un film, glieli ridanno i soldi, riesce? Secondo me no, però provi. E infatti non me li hanno ridati. Comunque, questo film che ho visto si chiama Mr. Chocolate. Chocolate, perché è francese. Sì. Però non parla di dolci, parla di un ragazzo di colore cioccolato. Quelli di un circo gli fanno fare l'uomo selvaggio che spaventa tutti. Tipo che esce fuori e fa wah! E quindi che succede? Allora, qual è la trama del film? Poche altre cose. Fammi parlare. Allora lui si mette in società con un clown e insieme hanno un sacco di successo perché sono bravi e fanno ridere tutti. Cerco uno come te. Cerchi un negro. Cerco un clown come assistente. Stop, come non detto. Hai capito? Poi però vanno a lavorare a Parigi e come al solito, perché tanto succede sempre così anche nei film, va a finire che a causa del suo cioccolatismo, della sua colorazione, insomma, delle persone schifose lo mettono in galera e gli danno pure un sacco di mazzate, sti zozzoni, che io i razziali non li sopporto proprio. I razzisti? Chi? Senta, Donatella, ma per caso può parlarci del cast? Purtroppo assolutamente proprio no. No. Perché non ho fatto in tempo a saperlo. Però sul manifesto del film c'è scritto che ha vinto pure dei premi. Ah no, no, non ha vinto una mazza, c'è scritto che è stato campione di incassi in Francia. E aspetta, ci stanno scritti pure gli attori. Senta, Donatella, facciamo così, ma vale la pena vedere Mr. Chocolat? Il film mi è piaciuto, ho pure pianto, eh. Però secondo me è anche per colpa degli ormoni strani della primavera, perché a volte, non so se capita pure a te, ma a me succede che mi viene tutto caldo in faccia e comincio pure ad avere tanta voglia di fare le... No, di... Ho capito, grazie Donatella. Ma tu la sai la canzone della maledetta primavera? Eh certo. Quella che fa che importa se... Sì, proprio quella, sì, la conosco. Sì. Dai, cantala, dai! Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Pietrangelo, dove andiamo oggi? Ah, allora, se segui questo rigagnolo, è acqua un po' torbida. E poi guarda chi vedo c'è. Vedo che qui c'è anche Mario Secchi. Buongiorno Mario. Buongiorno. Io e Mario, come vedi, siamo a cavallo del rigagnolo e ti portiamo in Giappone. Ognuno con una musica. Mario ce n'ha una. La volete già sentire? Sì. Beh, Oggi sono io il classico, siamo nel weekend, abbiamo invertito i ruoli. Lo vedo, e allora ho paura. Pietrangelo, tu invece, scusa. Alla Butterfly di Mario, io rispondo per portarti in Giappone e presentarti l'ospite con un brano di Sottofascia, Semplice come mai. Ma che bel mondo di merda che vi siete costruiti, ma quanti complimenti che vi siete meritati. Allora eccoti seduto con le mani nei capelli che ti chiedo come mai perché abbiamo con noi Mario Vattani, che ha scritto Doro Mizu per Mondadori. Buongiorno Mario, cos'è Doro Mizu? È acqua torbida, cioè quello che in Giappone chiamiamo il mercato dell'acqua, che è quello di intrattenimento. Invece quello dell'acqua torbida diventa quello di qualcosa un po' che va oltre l'intrattenimento, che è diciamo il mercato del mondo a luci rosse. Un'ambientazione noir nei quartieri del divertimento di Tokyo, quelli più impenetrabili. Infatti quello di Doro Mizu è un Giappone insolito rispetto a quello che viene sognato, raccontato tra cinema e letteratura. Perché ha fatto questa scelta? Non è insolito per i giapponesi, ma è insolito per gli occidentali. Cioè quello che di solito è nella letteratura e nel cinema giapponese un mondo che, siccome nasconde ovviamente delle storie, un vissuto difficile, eccetera, e quindi è pieno, diciamo, nella letteratura e nel cinema giapponese di storie che raccontano quell'ambientazione lì. Invece nel mondo occidentale molto spesso il Giappone o viene descritto, appunto, prima sentivamo le note di Madama Butterfly, certo, quello è un inizio del racconto del Giappone, adesso lo conosciamo molto meglio, però è sempre uno scenario problematico che ci mette in difficoltà, perché c'è la lingua, perché sono città difficili che non si capiscono. Per esempio sto pensando a Lost in Translation, eccetera. Invece io con questo libro voglio portare il lettore dietro le quinte e ho scelto la parte più difficile per gli stranieri, cioè quello che c'è, diciamo, dietro lo schermo delle città giapponesi e soprattutto di una megalopoli come Tokyo. Ministro Vattani, tu sarai anche un grande diplomatico, però nel libro c'è un sacco di sesso. Ma è autobiografico? Alex, che è questo protagonista, un ragazzo italiano che è appassionato di Giappone, appassionato di cinema, vuole vivere a Tokyo e da lì poi ha un mille avventure. Mi somiglia. Sulla città dici c'è molto sesso, allora diciamo che c'è molta sensualità, cioè, però i sensi non sono solamente quelli, diciamo, dell'erotismo, quindi non sono solo le donne, che se ne incontrano molti e da loro devo dire che Alex continua sempre a imparare, ma i sensi sono stimolati tutti, i ristoranti, il cibo, i profumi, la vista, una, due, centomila cose. E Mario Vattani, i ciliegi sono esplosi, l'acqua torbida avvolge nei sensi, anche nel sentimento. Mario, prima abbiamo sentito le note di Sottofascia Semplice, perché il grande Vattani è un fior di capo band. Abbiamo un altro modo di salutare Mario Vattani, edizioni Mondadori, il libro Doro Mizu, Made in Japan. Caro Franco Schipani, buongiorno. Carissima Alessandra Fiori, buongiorno a te. Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza. Beh, Daniele Silvestri proprio ha il dono di essere imprevedibile, cara Alessandra. Ecco, discograficamente da lui non sai mai cosa aspettarti, non ha proprio un genere di riferimento e per questo riesce sempre a divertire. Anche perché ha un problema, si è innamorato di una paranza. Di una paranza che un fa sì. Rima con... Comunque, se avete la fortuna di vederlo dal vivo, andateci perché vi divertirete, perché il suo spettacolo è molto partecipativo. Quindi, tradotto? Immagino quindi, tradotto, che il pubblico sì. Se vai, ti diverti e balli, sicuro. Comunque, quando allora, Franco? Daniele Silvestri, il primo appuntamento utile è domani, sabato 9 aprile, all'Auditorio di Roma, alle ore 21 in punto. 2000 caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te. Che aspetti? Alex Britti, ecco, lui nasce come chitarrista. Cioè, lui che lo vedi da qualche parte, sicuro nel raggio di 10 metri c'è una chitarra. Ovunque, comunque, strumento che ha iniziato a suonare prestissimo, quando ancora faceva l'elementare. Alle elementari, pensa, in piena epoca beat, in piena epoca disco, che cosa si va a inventare lui? Di suonare il blues, un genere che, insomma, ah, bello, però insomma non è che proprio discograficamente abbia prodotto dei successi da miliardi di copie. No, Franco, questo da te non me l'aspetto, però, No. E comunque è andato ai talent show, ha fatto tutta la gavetta, poi le colonne sonore, poi Sanremo, insomma, quando è andato a vederlo dal vivo, aspettatevi di tutto, perché lui ama suonare la chitarra, perché è un chitarrista, ripeto. Per chi non avesse capito, Alex Britti è innanzitutto grande, grande chitarrista, sì. Fantastico chitarrista, ed è un repertorio fantastico, canzoni che ormai tutti quanti conoscono. Alex Britti dicerà domani, sabato 9 aprile, al Gran Teatro Geox di Padova alle 21:15. Ne vale la pena. Ma pure la carta sporca e nessuna se ne è morta e ognuno aspetta sorte. Alessandro, tu lo sapevi che Fiorello negli anni 90 vendeva tanti dischi? Cioè lui cantava, era un cantante, lo sapevi e tu? E qui addirittura? Ma che qui fa? Poi si è levato tutti gli sfizi, perché quando è diventato famoso si è permesso di duettare con tutti, da Pino Daniele, che stiamo sentendo in sottofondo, questa bellissima Napoleone, a Liza Minnelli, insomma con tutti. Con Liza Minnelli? Nessuno si poteva rifiutare di duettare con Fiorello. Comunque, gli è concesso questo ed altro a questo ragazzo di origine siciliana che inizia come animatore di un villaggio turistico e diventa poi l'artista più amato dagli italiani. Lui è cantante, ballerino, imitatore, attore, comico. E anche quest'ultima definizione, comico, è insomma un po' restrittiva. Poi la gavetta, le dipendenze. Scusate, qui c'è Pietrangelo che vuole dire una cosa su Fiorello. Ricordiamo che Rosario Fiorello adesso è anche giornalista, perché ha ricevuto il premio E Giornalismo, un premio fondato niente meno che da Biagi, Bocca, Montanelli, dal che se ne deduce che se fossero vivi oggi dovrebbero fare concorrenza a Fiorello, che è grandissimo e non ha bisogno di premi. Forse farebbero anche un duetto. Certo. Lui la gavetta se l'è fatta tutta, si è fatta le dipendenze. Poi il grande successo, insomma, una favola italiana. Una favola che ci racconta Giovanni Minoli, quindi restate in ascolto.